fiumi nel 2014. Padoan, reprimeremo l'evasione ma con nuovi strumenti. Renzi all'inaugurazione di Pitti a Firenze si rivolge alle banche. Dopo le mosse di Draghi non ci sono più alibi, si faccia credito soprattutto alle piccole e medie imprese. Rientra la protesta dei 14 senatori del Partito Democratico e l'autosospensione dal gruppo. Continua la battaglia all'interno del PD, dicono. In Iraq gli jihadisti dell'ISIS hanno conquistato la regione di Tal Afar, battaglia con decine di morti. Gli Stati Uniti inviano 275 militari a protezione dell'ambasciata. Caccia in rete, come ogni anno, a indiscrezioni, voci, presunte tracce. Domani la prima volta della maturità per 490.000 studenti. Questa sera il nostro speciale Notte prima degli esami. Ospiti Stefano Benni, Gabriele Salvatore, Corrado Augias, il ministro Giannini e molti altri. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre se volete le potete commentare al 349-238-6666 via SMS oppure scrivendomi su Twitter Simone Spezia oppure ci potete mandare una mail effettogiorno@radio24.it. Iniziamo dalla vicenda di Yara Gambirasio e della cattura del presunto assassino dopo un'indagine molto complicata, una vicenda che inizia ad assumere aspetti politici soprattutto per le dichiarazioni di ieri e l'annuncio di ieri del ministro Alfano. Dunque sentiamo i servizi. Le prime pagine dei giornali sono piene oggi delle foto di Massimo Giuseppe Bossetti. Si parla di presunto assassino, ma nello stesso tempo sono state diffuse molte informazioni su di lui e la sua famiglia, moglie e tre figli. Il procuratore di Bergamo, Francesco Dettori, ha dichiarato oggi che era intenzione della procura mantenere il massimo riservo sul fermo di Bossetti avvenuto ieri. Questo, ha spiegato, anche a tutela dell'indagato, perché secondo la Costituzione esiste la presunzione di innocenza. Il procuratore ha anche precisato che il fermo seguirà il consueto iter di tutti gli altri, a sottolineare che la procedura viene rispettata. Non ha fatto accuse precise il procuratore, ma il ministro dell'Interno Alfano, che ieri aveva annunciato il fermo del presunto colpevole, ha replicato: «Io non ho dato alcun dettaglio», e poi ha aggiunto: «Penso che sia lui a doversi chiedere chi ha inondato il nostro mondo dei mass media di una quantità infinita di dettagli e di informazioni, e ovviamente questo non è stato il governo e men che meno io. In tutti i casi l'opinione pubblica aveva il diritto a sapere, ha saputo, e credo che questo sia un elemento di rassicurazione per l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica ha chiaro ancora di più una volta come lo Stato vinca e chi delinque e chi uccide perde, che il destino di chi uccide è quello di finire in galera». Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'inchiesta che ha incrociato nuove tecnologie e vecchi sistemi investigativi. Il test del DNA partito da una goccia di sangue che l'assassino lasciò sui pantaloni di Yara. 18.000 i campioni di DNA passati al setaccio per arrivare a quello di un uomo, autista di autobus, morto nel 99, Giuseppe Guerinoni. L'assassino ha il DNA di Guerinoni. Si contattano allora i figli. Niente. Scatta l'ipotesi di un figlio illegittimo. Mentre continuano i test sul DNA, gli investigatori iniziano a indagare con i metodi tradizionali. Parlano con la gente, guardano vecchi archivi, ricostruiscono il vissuto di un piccolo paese del Bergamasco. Si arriva a stringere il cerchio tra le donne che avrebbero potuto avere una relazione con Guerinoni, e c'è anche Esther Arzuffi, 67 anni. Quando la chiamano per il test del DNA, qualcosa non funziona. Sembra, da quanto racconta Repubblica, che il DNA della donna venga messo a confronto con quello di Yara e non con quello del presunto assassino. E nel nuovo confronto gli inquirenti capiscono d'essere sulla strada giusta. Esther Arzuffi è la madre di Ignoto 1. È stata amante segreta di Guerinoni e nel 1970 ha avuto da lui due gemelli. Al maschio ha dato lo stesso nome di battesimo di Guerinoni. La femmina invece l'ha chiamata Laura, come la moglie di Guerinoni. Ed è proprio questo particolare dei nomi a mettere gli inquirenti sulle tracce di Giuseppe Bossetti. Il resto lo fanno le verifiche sulle celle telefoniche. Alle 17.45 del 26 novembre 2010, il cellulare di Giuseppe Bossetti risulta essere nella zona della palestra di Yara Gambirasio. L'uomo fa una telefonata. Un'ora dopo si perdono le tracce di Yara. Gli inquirenti decidono allora di procedere. Inscenano domenica scorsa un controllo casuale. Mentre transita sulla strada verso Seriate, Bossetti viene fermato e sottoposto ad alcol test. Il reperto viene inviato a laboratori del RIS. Bastano pochi minuti per ottenere il risultato e l'esito è clamoroso. Giuseppe Bossetti è Ignoto 1. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E un'altra vicenda di cronaca, accusato di triplice omicidio, l'uomo che avrebbe ucciso moglie e figli nella sua casa di Motta Visconti. Si trova nel carcere di Pavia con l'accusa di triplice omicidio. Carlo Lissi, l'uomo che sabato sera ha ucciso moglie e figli. Volevo separarmi ma non avevo il coraggio. Dopo aver confessato con la testa tra le mani implorando il massimo della pena, l'informatico 31enne ha cercato di dare una spiegazione per quel gesto che gli inquirenti hanno definito di lucida follia. Sabato nella sua casa di Motta Visconti ha ucciso la moglie colpendola con un coltello, poi è andato al piano di sopra e nel sonno ha ucciso i suoi figli. Ma ciò che più ha lasciato sbigottiti magistrati e investigatori è stata la ricostruzione della serata. Dopo aver ucciso moglie e figli, Lissi è andato al bar con un amico, ha esultato per i gol dell'Italia, ha riso e scherzato. Poi è tornato a casa, ha chiamato il 118 e denunciato una rapina finita nel sangue. Quando durante l'interrogatorio gli è stato contestato l'amore morboso per un'altra donna, l'uomo è crollato e ha confessato tutto. Secondo i carabinieri potrebbe aver agito sotto l'impulso di una passione respinta. Forse voleva eliminare le persone che erano diventate un ostacolo fisico tra lui e una collega di lavoro. Antonella Ferrara, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E chiudiamo l'ampia pagina di cronaca e vedremo se riusciremo a tornarci più avanti con altri ospiti per parlare invece di economia e di tasse, perché questa mattina c'è stata l'assemblea di Confesercenti e sono stati diffusi dei dati interessanti anche per quanto riguarda appunto le tasse. Ha parlato anche il ministro dell'economia Padoan, dunque il punto con Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno, è così. Simone, Confesercenti nella sua assemblea annuale lancia innanzitutto l'allarme fisco. In 8 anni sono quasi raddoppiate le tasse sulla casa, passate da 28 a 52 miliardi l'anno, un salasso che tocca cittadini e imprese. Il prelievo, denuncia l'associazione dei commercianti, nel 2013 è stato per gli immobili di imprese, artigiani e commercianti di 6,9 miliardi di euro, quest'anno potrebbe toccare gli 8,5 per effetto del combinato IMU-TASI. Non stupisce, ha commentato il presidente Marco Venturi in assemblea, che nei primi 5 mesi dell'anno abbiano chiuso 53.000 esercizi. Basta fare cassa spolpando le imprese, ha detto ancora Venturi, chiedendo al governo un nuovo patto fiscale per restituire in 5 anni 50 miliardi a cittadini e imprese. Plauso invece sul bonus fiscale, che dice Venturi può rilanciare i consumi per 3,1 miliardi di euro nel 2014, il taglio dell'IRAP e il DL lavoro. E sul fisco è intervenuto nelle stesse ore il ministro dell'economia Padoan, parlando alla scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Bisogna migliorare i rapporti tra il fisco e i contribuenti, ha detto il ministro, quasi una risposta indiretta a Confesercenti. Bisogna reprimere ogni forma di evasione, al tempo stesso serve un nuovo approccio, non singoli interventi, in modo che il sistema poi nel suo complesso diventi più credibile. Da Roma è tutto. E grazie ad Alessandra Schepisi. Anche di economia ha parlato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi questa mattina, inaugurando Pitti Uomo. Ubaldo Cianciulli da Firenze, buongiorno. Simone, buongiorno. Aperture di linee di credito alle imprese da parte delle banche, il decreto Sblocca Italia deve fare da volano la nostra ripresa. Una migliore promozione di noi stessi, perché i politici sono i peggiori direttori commerciali e bisogna raccontare un'Italia diversa, l'Expo come una gigantesca chance per il paese. Questi punti toccati dal premier Renzi nell'inaugurazione di Pitti Immagine Uomo, ma dal Salone del 500 il Presidente del Consiglio l'appello più forte l'ha rivolto alle banche. Ascoltiamo. Noi chiediamo con forza agli istituti di credito di intervenire con determinazione, di far girare i denari che vengono dall'Europa e essere in condizioni di dare finalmente un po' di respiro, soprattutto alle piccole e medie imprese che hanno sofferto. Se è vero che non c'è stato credit crunch, è vero che c'è stata una contrazione straordinaria del credito. Noi abbiamo bisogno di un sistema bancario che sia nelle condizioni di fare ciò che la Banca Centrale Europea oggi ha messo in campo. La crisi, ha detto Renzi, non è finita ma può essere vinta. Nel consueto bagno di folla, foto e strette di mano con concittadini e turisti, ha lasciato Palazzo Vecchio insieme alla moglie Agnese. E da Firenze è tutto. Grazie Ubaldo Cianciulli. E per restare sull'economia parliamo dei dati di questa mattina sulle vendite di auto. L'auto europea conferma la ripresa, ma l'Italia resta indietro e il gruppo Fiat continua a perdere quota di mercato. Secondo quanto comunica la CEA, l'Associazione dei Costruttori Europei, le vendite di auto a maggio nei 27 paesi dell'UE sono cresciute del 4,5% rispetto allo stesso mese del 2013 a quasi 1,1 milioni di unità. Il rialzo nei primi 5 mesi dell'anno è del 6,9%. La crescita è trainata soprattutto da Spagna, più 17% a maggio, Gran Bretagna, più 8% e Germania, più 5%. Dopo alcuni mesi incoraggianti, invece, l'Italia ha ripreso a calare a maggio con un meno 3,8%. L'inversione di tendenza ha penalizzato anche Fiat, che paga la dipendenza dal mercato nazionale oltre al mancato rinnovo della gamma. Le circa 70.000 auto vendute dai marchi del lingotto valgono una quota europea del 6,4% a maggio rispetto al 6,9% di un anno prima. Un calo imputabile quasi per intero alla marca Fiat. Peggio di quest'ultima è andato solo il brand al centro dei piani di rilancio di Sergio Marchionne, ovvero l'Alfa Romeo, le cui vendite sono scese di quasi il 20%. Andrea Malan, Radio 24, il Sole 24 Ore. La politica adesso hanno, per così dire, autosospeso l'autosospensione i famosi 14 senatori del Partito Democratico. Elisabetta Fiorito, è così? Sì, proprio così, Simone. Rientra la protesta dei dissidenti del PD, 14 senatori che, ricordiamo, avevano deciso di autosospendersi dopo la sostituzione di Chiti e Mineo in Commissione Affari Costituzionali al Senato. Ci hanno ripensato, dicono si continuerà a dar battaglia all'interno del PD, resta il no comunque su alcune parti del disegno di legge sul Senato non elettivo, ma Anna Finocchiaro, presidente della Commissione Affari Costituzionali, dice che il PD adesso è più forte ed è importante che i democratici arrivino uniti alla discussione sulle riforme, ci sono condizioni politiche più favorevoli. Favorevoli, si passerà al vaglio politico, le varie proposte in campo e poi si inizierà a votare. Sono pronti, poi dice sempre Finocchiaro, gli emendamenti dei relatori, che sono appunto Anna Finocchiaro e Roberto Calderoli della Lega, e saranno esaminati dal governo. Nessuna però proposta dei relatori di modifica dell'articolo 57, ovvero quello della modalità di elezione dei senatori. Dopo l'apertura del Movimento 5 Stelle al dialogo sulla legge elettorale, Forza Italia invece fa pressing sul presidenzialismo. Maurizio Gasparri lancia un messaggio a Matteo Renzi: il premier ascolti chi vuole, ma no ad un Senato trasformato in nominificio del Capo dello Stato, e poi Renzi non potrà sottrarsi al confronto sul presidenzialismo. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Nel frattempo si sta programmando e si sta preparando l'incontro con il Movimento 5 Stelle. Veniamo a parlare degli arresti di questa mattina all'Aquila per tangenti sulla ricostruzione, ma per gli inquirenti non esiste un sistema, nessun comitato d'affari. Sentiamo. Agli arresti sono finiti in cinque. Il personaggio principale è l'ex vice commissario ai beni culturali alla ricostruzione, Luciano Marchetti, con lui una funzionaria del ministero e tre imprenditori. Al centro dell'inchiesta la ricostruzione di due chiese distrutte dal terremoto. I reati contestati: corruzione, falso ideologico, turbativa d'asta, millantato credito e emissione e utilizzo di fatture inesistenti. Che le cose non filassero lisce all'Aquila si sapeva. Nel gennaio scorso fu costretto a dimettersi il vice sindaco Riga. Si parlò di corruzione anche allora. Dall'aprile del 2009 sono passati 5 anni e la città è ancora vuota. Vuota rispetto a com'era, piena di vita, di locali, di studenti. I palazzi sono puntellati, le strade per lo più deserte, la maggior parte dei negozi chiusi. Ma nel capoluogo abruzzese non esiste un sistema all'Aquila, come conferma il PM Antonietta Picardi. La correttezza istituzionale, quindi comune e governo, sono riusciti a tenere ferma e ad andare dritti, a non modificare quella che è la regolarità, malgrado delle pressioni continue e costanti. Ad aprile il governo ha presentato un dossier: 3.500 i cantieri aperti, 8 miliardi già spesi, 43.000 persone tornate nelle proprie abitazioni. Valeria De Rosa, Radio 24, il Sole 24 Ore. Il calcio con i mondiali, naturalmente, parlando soprattutto dell'Italia e di quel Salvatore Sirigu, l'uomo di cui si parla, il portiere che ha sostituito Buffon nella partita d'esordio e l'ha sostituito ottimamente, il nostro inviato. Ci sono vari giochi, in quelli di guerra e tattica di guerra io e Thiago Motta siamo da medaglia d'oro. Confessa così la sua passione per i videogiochi di strategia e tattica, Salvatore Sirigu. Non sorprende allora che il primo portiere sardo nella storia della nazionale si comporti da abile stratega nel momento in cui solo si sfiora il tema del possibile ritorno di Gigi Buffon in porta con la Costa Rica. Se gioco o no, non lo so. Io sono tranquillo e sereno come ero nei giorni scorsi e mi allenerò normalmente e Gigi uguale, speriamo tutti di poterlo recuperare, di riaverlo tra di noi in campo. Intanto il 27enne di Nuoro si gode il momento in azzurro ed è pronta un'altra annata da protagonista a fianco di Ibrahimovic, Verratti e Thiago Motta al Paris Saint-Germain. Parigi è la città ideale per un talento che sogna la Champions e il Mondiale e ama arte e architettura. E il futuro? Stessa uscita e impresa alta. Manaus è già un ricordo, il presente è Recife e la Costa Rica, il domani una sfida con lo stesso Buffon e gli altri pretendenti alla maglia azzurra numero uno. Non penso a un futuro come dire sostituire già Gigi, no, per me il futuro è quello che sto vivendo adesso. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mangaratiba. È un quadro delle partite di oggi: a Belo Horizonte, Belgio-Algeria alle 18, a Fortaleza, Brasile-Messico alle ore 21. Tornano in campo dunque i padroni di casa, a Cuiabá, Russia-Corea del Sud. Giocano a mezzanotte per veri coraggiosi. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Un aggiornamento di pochi istanti fa dall'Iraq, dove sarebbe di oltre 40 morti il bilancio provvisorio e non verificabile in maniera indipendente, così riferiscono le agenzie, di scontri in corso nella regione orientale irachena di Diyala, nel capoluogo Baquba, assaltato oggi da miliziani qaedisti. Siamo a pochi chilometri da Baghdad. Caso Iara, c'è uno scontro tra la procura di Bergamo e Alfano, volevamo mantenere il riservo, dicono i magistrati, il ministro dell'interno replica, si chiedono da dove arrivano tutti i dettagli che ci sono oggi sui giornali. Negli ultimi 3 anni aumenti di tasse per 34 miliardi, stima la Confesercenti. Renzi si rivolge alle banche, dopo le mosse di Draghi non ci sono più alibi, si faccia credito alle imprese. Rientra la protesta di 14 senatori del Partito Democratico e l'autosospensione dal gruppo, continua la battaglia all'interno del PD, dicono. Saluto Enrico Zanetti, sottosegretario all'economia, bentornato ai nostri microfoni e buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, vorrei partire da una cosa che riguarda più o meno tutti, anzi sostanzialmente tutti, che è la TASI. La situazione è molto confusa e l'abbiamo descritta anche nei giorni scorsi, perché oltre alla scadenza del 16 giugno, oltre a quella del 16 ottobre, ci sono dei comuni che si sono mossi autonomamente per rinviare la scadenza, nonostante in realtà la legge non lo consenta. Un fatto abbastanza curioso, però è avvenuto e tant'è. Vorrei capire se ci conferma che non ci saranno sanzioni per i ritardatari. Guardi, adesso io ho anticipato già la scorsa settimana in commissione finanze una domanda fatta in sede appunto di Question Time, dicendo che questo era l'orientamento. Ora lo vedremo di formalizzare con una risoluzione del Ministero e quindi facendo leva in via interpretativa sullo statuto del contribuente, che consente la disapplicazione di sanzioni in condizioni di obiettiva incertezza, e per la TASI obiettivamente ci sono, potremmo dire che non si applicano le sanzioni per chi procede tardivamente al versamento rispetto alla scadenza del 16 giugno, che come ricordava lei riguarda quei comuni che avevano già deliberato. Che tempi prevede per questa, che sostanzialmente mi pare di aver capito una sorta di circolare del Ministero, insomma, qualcosa? Sì, direi che adesso in settimana la emaniamo e quindi conferma l'orientamento che avevamo già nei giorni scorsi espresso. Anche l'ANCI si è attivato, magari non, forse era meglio se ci quadravamo tutti un po' prima, ma anche l'ANCI si è attivato rendendosi conto che era opportuno che arrivassimo a questo tipo di soluzione interpretativa. Senta, a proposito di rinvii, c'è una forte pressione, oggi tra l'altro si è svolta l'assemblea di Confesercenti, una forte pressione da parte soprattutto di artigiani, piccoli imprenditori, sull'obbligo del POS a partire dei professionisti naturalmente, sull'obbligo del POS a partire dal 30 per tutti i pagamenti superiori ai 30 euro. Anche là si sta ipotizzando un nuovo rinvio, una nuova proroga oppure no? Perché c'è molta gente che è indietro, tra l'altro costa parecchio, le banche lo fanno pagare parecchio, insomma. No, per ora l'idea della proroga ancora non c'è. Abbiamo detto con chiarezza che, per come è scritta la norma, non esiste una sanzione specifica per chi non si dota del POS a partire dall'1 luglio, fermo restando che chiaramente dall'1 luglio un cliente che vuole pagare con la carta di debito, nell'istante in cui gli viene detto no, non posso perché non ho il POS, tecnicamente lui ha il diritto di pretendere di pagare in tal modo, il che ovviamente non è che lo libera, non è che libera dall'obbligo di pagare, però come dire, si può creare un impasse, motivo per cui se il cliente si impunta c'è l'obbligo di fatto di dotarsi, oppure la transazione non va sostanzialmente a buon fine. Nel tempo è evidente che bisognerà con le banche, e c'è già questo impegno, fare in modo che ci siano delle revisioni sui costi di tenuta dei POS. Fino ad allora io sono contrario a introdurre sanzioni specifiche, perché prima bisogna creare le condizioni per cui gli esercenti, i professionisti non abbiano oneri eccessivi dall'essere dotati. Sì. Del POS, e dopo si potrà semmai rendere questo obbligo ancora più presente. Senta, sul fatto comunque che bisogna cercare di agevolare in ogni modo la circolazione del denaro, della moneta, come dire, bancaria in luogo del contante, io credo che dobbiamo su questo essere d'accordo. Senta, a livello un po' più generale, io oggi ho guardato la prima pagina del Sole 24 Ore e c'è letteralmente da impazzire, perché c'è una sorta di schemino con il nuovo calendario di Unico che prevede 4 scadenze diverse a seconda della condizione nella quale si è. Ma ci dica chiaramente, sottosegretario, è accettabile una cosa di questo genere per un contribuente? No, inaccettabile. Sono anni purtroppo che il sistema sta peggiorando invece che migliorando. Quest'anno, da dire, con il binomio TASI-IMU abbiamo veramente superato la decenza, mi avviso. È chiaro che questo governo sulla semplificazione fiscale ci scommette molto. Diciamo che il risultato del nostro operato sarà quello che accadrà nel 2015, perché è chiaro che noi adesso stiamo lavorando per poi semplificare l'anno prossimo. Se l'anno prossimo saremo in una situazione anche solo simile a quella di quest'anno, beh, avremo clamorosamente fallito anche noi. La questione TASI è anche stata gestita male, sottosegretario? Cioè, sentite di dovere in parte anche delle scuse ai cittadini per come è stata gestita? I problemi sulla TASI partono l'anno scorso, con quella strana maggioranza che aveva al suo interno dei veri e propri, come dire, sabotatori interni, che poi si sono palesati come tali con l'uscita. Dopo, insomma, con l'uscita di Forza Italia, hanno posto al governo precedente dei vincoli strettissimi sull'abolizione a tutti i costi per tutti della tassazione prima casa, pur non essendovi chiaramente i presupposti in bilancio per farlo. Il precedente governo ha sbagliato a inseguirli troppo su questa strada e poi alla fine ha partorito una sorta di IMU prima casa chiamata TASI, ovviamente un pochino in sé meno cara, ma alla fine molto simile a livello complessivo, e però nel fare questo ha anche raddoppiato le imposte, raddoppiato le complicazioni, è stato un disastro. Sì, da questo punto di vista io credo che l'abbinamento IMU-TASI sia veramente una cosa indifendibile. Questo governo naturalmente nell'immediato non ha potuto agire se non cercando almeno di riparare all'errore sulle detrazioni. Per l'anno prossimo lo dobbiamo risolvere, diventa un errore anche nostro. Quindi va cambiato di nuovo il regime fiscale sulla casa, scusi? Ma non c'è da cambiare. Allora si può eventualmente valutare di fare azioni ancora più incisive, ma queste saranno eventualmente da valutare. Ma nell'istante in cui dico che anziché chiamare TASI la parte sulla prima casa, posto che si calcola su una base imponibile che è assolutamente identica, la richiamiamo direttamente IMU, richiamiamo tutto ICI, comunque da due imposte, con scadenze che a quel punto si separano, con complicazioni che si raddoppiano, le riportiamo tutte sotto un unico cappello, guardi che dal punto di vista sostanziale non facciamo nulla, perché già adesso è la stessa cosa. La ringrazio, grazie al sottosegretario Enrico Zanetti, sottosegretario dell'economia, per essere stato con noi, con delega tra l'altro proprio al fisco, quindi insomma è la persona adeguata a parlare di tutto questo. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, ciao Alberto e bentornato anche te ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, le ultime notizie che ci arrivano dall'Iraq, ne parla Al-Arabiya, che cita fonti locali irachene, ancora senza conferme, però la battaglia sarebbe in questo momento a Bakuba, dove ci sarebbero 40 morti, un bilancio provvisorio e non verificabile. Se non erro, Alberto, tu che conosci quel territorio, siamo veramente a un tiro di schioppo da Baghdad, per così dire. Bakuba è una città di importanza notevole dal punto di vista tattico per arrivare a Baghdad, perché siamo circa 50 o 60 chilometri dalla capitale, in pratica a poco 40 minuti di auto, e la battaglia in questa zona è importantissima. Questa è la provincia di Dala, è una provincia che è sempre stata molto difficile da controllare anche durante l'occupazione americana. Se vi ricordate, qui ci furono scontri ferocissimi, e credo che adesso sia una delle battaglie più importanti, perché la guerriglia dell'esercito dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante punta decisamente ad accerchiare Baghdad e a ricostituire una sorta di triangolo sunnita, con al vertice a nord Tikrit, a ovest Ramadi e a est Fallujah. Senti Alberto, gli americani hanno annunciato questa notte che manderanno 275 militari, in realtà in sostanza solo per proteggere il personale dell'ambasciata, non per altro. Ti sembra che la politica estera americana, quella degli ultimi anni dico naturalmente, abbia commesso degli errori e degli errori gravi? Beh, diciamo che innanzitutto questa amministrazione americana è davanti allo stesso dilemma che aveva l'anno scorso in Siria: bombardiamo o non bombardiamo? Perché a questo punto di questo si tratta: se vogliono aiutare il governo attuale del primo ministro sciita Nuri al-Maliki, dovrebbero usare i droni, come ha detto Kerry, o perlomeno cercare in qualche modo di dare un aiuto militare con l'aviazione. Soltanto che è un dilemma molto, molto difficile da risolvere, perché, come sapete bene, anche i bombardamenti con i droni, molto spesso, l'avete visto in Afghanistan, al confine con il Pakistan, si sono rivelati dei problemi, soprattutto se la guerriglia si annida nelle zone urbane in mezzo alla popolazione civile che viene tenuta in qualche modo ostaggio. C'è il rischio, insomma, che agli effetti militari ci siano poi delle conseguenze sui civili, che sono anche conseguenze politiche piuttosto gravi. E poi la politica americana nella regione del Medio Oriente, in sintesi, è piuttosto fallimentare. L'Iraq è davanti agli occhi di tutti, un'occupazione che è durata dal 2003 al 2011, e questo paese si sta frantumando praticamente in 3-4 parti diverse, e difficilmente tornerà insieme come l'abbiamo visto prima. La Siria lo avete visto, la Libia è un altro paese scivolato nel caos, e adesso vedremo quali saranno le ripercussioni in quell'Afghanistan, dove è in corso il ballottaggio per le presidenziali. Lì ci dovrebbe essere il ritiro americano, ma avete visto che dopo gli insuccessi clamorosi in Medio Oriente è chiaro che anche i talebani meditano da quell'altra parte, su quel quadrante, la rivincita. Gravi problemi ha la politica americana nella regione, ma le conseguenze purtroppo le avremo anche noi qua in Europa. Grazie anche per oggi ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per le sue analisi. Noi chiudiamo questa parte parlando di maturità. Si ipotizzano, continuano a girar voci sulle tracce, 490.000 persone attese all'esame. Si parla di Facebook che festeggia il suo 10° compleanno, Nelson Mandela, García Márquez, la caduta del muro di Berlino di cui ricorre il 25° anniversario, la santificazione di Giovanni Paolo II, i 60 anni di televisione italiana, i 70 anni allo sbarco in Normandia, ce n'è di tutto naturalmente, e prendete con le pinze qualsiasi cosa vi abbiamo detto fino adesso, perché potrebbe essere assolutamente smentita domani. Stasera il nostro programma, la nostra ormai tradizionale notte prima degli esami, di Federico Taddia. Ciao Federico. Ciao Simone, ecco qua, ci siamo, è la notte prima degli esami, la notte che anche noi, che la maturità l'abbiamo fatta qualche anno fa, ricordiamo. Saremo insieme con questo speciale dalle 21 alle 24, sarà aperto dal ministro dell'istruzione Giannini, tanti ospiti, come sempre, voci dello spettacolo, dello sport, della cultura, per raccontare il loro esame, per dare i giusti suggerimenti ai ragazzi. Ci sarà il regista Gabriele Salvatores, Alessandro Catlan, il vincitore dell'ultimo X Factor, Siria, Salvo Sottile, Sonia Bergamasco, Daria Bignardi, e poi ragazzi con le loro ansie, le loro paure, le loro voci. Andremo anche alla ricerca delle tesine più simpatiche e più divertenti, avremo anche collegamenti particolari, saremo all'interno del carcere dove ci sarà un detenuto che si prepara all'esame di maturità e ci racconterà come sta vivendo queste ultime ore, e poi consigli come sempre di studenti.it che stanno monitorando da giorni la rete con il Tototraccia, con l'identikit dei vari commissari, insomma tante parole, tante suggestioni, anche tante emozioni, perché comunque è una serata carica anche di quello, per fortuna. Bene, grazie a Federico Taddia, e a stasera dunque con Notte prima degli esami in diretta su Radio 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sul caso Iara, scontro tra la procura di Bergamo e Alfano, volevamo mantenere il riservo, dicono i magistrati, il ministro dell'interno replica, si chiedono da dove arrivano tutti i dettagli che ci sono sui giornali. Negli ultimi 3 anni aumenti di tasse per 34 miliardi, secondo Confesercenti, che stima che gli 80 euro genereranno 3 miliardi in più di consumi nel 2014. Rientra la protesta dei 14 senatori del Partito Democratico e l'autosospensione dal gruppo. Si prepara intanto l'incontro tra Renzi e i vertici di Forza Italia e Renzi e il Movimento 5 Stelle sulla legge elettorale. In Iraq gli jihadisti dell'ISIS stanno assaltando Bakuba, ci sarebbero 40 vittime. È il momento della borsa. Borse in diretta. In una giornata che è moderatamente positiva per le piazze finanziarie europee, Parigi guadagna lo 0,3%, Francoforte lo 0,32%, Londra lo 0,06%, Milano invece negativa seppur di poco, FTSE MIB meno 0,09%, FTSE All Share meno 0,05%. Isabella Tasso, Radio Cori, Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Come mai scende la borsa di Milano? La borsa di Milano è appesantita dall'andamento negativo di alcuni titoli importanti come Eni, che perde l'1%, Saipem il 3%, Finmeccanica il 2%. I listini erano partiti piuttosto bene, anche Milano, poi hanno comunque rallentato a metà giornata, complice anche l'indice ZEV sulla fiducia degli investitori tedeschi, che è sceso inaspettatamente a giugno. Da qui un rallentamento delle borse, movimenti sono comunque marginali in attesa dell'esito della riunione della Riserva Federale Americana, che sarà reso noto domani. Solo un titolo ti chiedo, Isabella, oggi in una giornata nella quale complessivamente i bancari sono, mi sembra, abbastanza positivi, almeno alcuni, almeno le popolari, Popolare Milano più 9,64, Banco Popolare più 2,12, ancora sotto aumento di capitale c'è Monte dei Paschi che fa un più 20,3%. Sì, il titolo è stato fermo per eccesso di rialzo, adesso fa segnare appunto più 20%. Venerdì sarà l'ultimo giorno utile per la trattazione dei diritti dell'aumento di capitale, la speculazione torna a farsi avanti in attesa di capire se con l'aumento entreranno nel capitale nuovi soci. E grazie anche per oggi a Isabella Tasso di Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, prima di ritornare sul caso Iara Gambirasio, ci stiamo mettendo in contatto in questi minuti con il comandante provinciale dei Carabinieri di Bergamo per fare un punto e cercare di capire ulteriori cose. Abbiamo evidentemente qualche problema nel collegamento. Io direi che intanto possiamo fare un punto invece sulla situazione dei danni del maltempo. Chiedo a Filippo Oreggi, regia, se è pronto il servizio. Sentiamo. Tanti e tali sono stati i danni causati dal nubifragio che nella capitale è scattata anche un'inchiesta. Tra i reati ipotizzati, disastro colposo. Le voragini nell'asfalto e i tratti di strada interamente sommersi dall'acqua sembrano troppo per essere stati causati soltanto dalle bombe d'acqua che si sono abbattute sulla città. Ora la situazione sembra si stia gradualmente normalizzando, anche se i temporali hanno continuato a creare disagi alla circolazione anche dopo la prima violenta scarica di domenica. Allagamenti anche in Sardegna, Santa Teresa di Gallura, decine di persone hanno cercato riparo sui tetti delle loro case. Stessa cosa in alcuni comuni del Barese e del Casertano, dove l'acqua ha raggiunto anche 1,5 metri di altezza. Il tempo resterà instabile in buona parte dell'Italia, con temporali e un cielo denso di nubi fino a giovedì. Da venerdì, invece, dovrebbe ricominciare l'estate con sole caldo e bella stagione. Erika Magnello, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E saluto Antonio Bandiera, il colonnello Antonio Bandiera, che è il comandante provinciale dei Carabinieri di Bergamo. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi, grazie. Allora, la svolta quando è arrivata? Venerdì, sul caso Iara naturalmente. Sì, venerdì abbiamo avuto la conferma che il profilo genetico che era stato trovato sui leggings e sullo slip di Iara fosse compatibile con quello di questa donna, classe 1947, che a sua volta aveva avuto poi 3 figli. Quindi, indagando sui figli di questa donna, abbiamo poi individuato la persona che è stata fermata, quindi il Bossetti, il cui DNA è perfettamente coincidente con il DNA rinvenuto sugli indumenti di Iara. Siete stati voi a procedere al fermo, colonnello? Sì, abbiamo proceduto al fermo, siamo stati noi, unitamente anche al ROS Carabinieri ed anche ai reparti della Polizia di Stato, in quanto si è trattata di un'attività di indagine veramente complessa che ha visto le nostre forze, quindi dell'Arma dei Carabinieri, quelle della Polizia di Stato, agire all'unisono con una perfetta direzione della Procura della Repubblica di Bergamo. Complesso lo credo, con 18.000 campioni di DNA prelevati, immagino la complicazione della cosa. Ci può dire se ha detto qualcosa quando l'avete fermato l'uomo? No, al momento non ci sono, non sono state rese dichiarazioni dalla persona fermata. Ovviamente le attività stanno procedendo, ma quello che voglio sottolineare in tutto questo è la grande complessità delle attività da un lato e anche la caparbietà, mi consenta, di tutti gli uomini e le donne dell'arma e della polizia che hanno operato per arrivare a questo risultato, veramente laborioso ma premiale alla fine di tutto. Sento una cosa, colonnello, molto brevemente, volendo può rispondere anche con un no comment, perché io lo so che per queste cose, su queste cose per voi militari è complicato. In questo momento è in corso una polemica tra il procuratore e il ministro dell'interno, l'avrà visto, su chi ha diffuso le informazioni ai giornali. Io glielo devo chiedere, siete stati voi? No, guardi, no comment, non seguo nessuna polemica. Benissimo, la ringrazio, grazie. Grazie al colonnello Antonio Bandiera, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo. Traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. We're open to discussions if there is something constructive that can be contributed. La questione irachena si complica ulteriormente. L'America ha deciso di inviare ieri 275 soldati, di nuovo i boots on the ground, di nuovo gli stivali sul campo, soldati che dovranno proteggere l'ambasciata americana a Baghdad, Baghdad che rischia di trovarsi sotto assedio. Avete sentito il segretario di Stato John Kerry, che ha confermato una notizia che vi anticipavo proprio nella trasmissione di ieri, e cioè che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero allearsi per cercare di combattere la follia distruttiva di questo movimento islamico che vuole creare lo Stato islamico della Siria e dell'Iraq, Islamic State Iraq and Syria, ISIS. Ecco, un nome che sta diventando una nemesi. Abbiamo visto di nuovo questa mattina, tra l'altro, altre immagini di queste esecuzioni di massa compiute da questo esercito di militanti di Al-Qaeda, un esercito agguerritissimo. Altra notizia che abbiamo avuto dalla Casa Bianca, non ufficiale, è che potrebbero esserci delle missioni aeree, delle missioni artiglieria aerea per disturbare, per frenare l'avanzata di questo esercito irregolare e potrebbero anche esserci delle missioni di sorveglianza aerea. La situazione dunque è sempre più complicata, sempre più disastrosa, una forte evacuazione del personale diplomatico verso la Giordania. Ma non è il solo fronte pericoloso. Ieri vi dicevo, il mondo è in subbuglio. C'è stato un attentato sempre ieri in Kenya, 48 morti, il gruppo Al-Shabaab, di nuovo una scheggia impazzita, violentissima, terrificante, di Al-Qaeda. E poi vi ricordavo sempre nella trasmissione di ieri quello che è successo in Pakistan. Dunque, su ogni fronte sembra che Al-Qaeda abbia ritrovato energia e forza aggressiva. Altra notizia preoccupante: la Russia ha interrotto le forniture di gas naturale all'Ucraina, ha respinto l'offerta di Kiev di pagare parte del suo debito multimiliardario. Questo era il negoziato chiave su cui si doveva giocare un po' questa partita, e c'era da sospettare che però Putin, dopo le parole di apertura nei confronti di Petro Poroshenko, il nuovo ministro ucraino, avrebbe cercato di nuovo di alzare il tiro. Situazione in divenire, continueremo a seguirla sulle cronache d'ora in ora qui su Radio 24, nei giornali radio, negli altri programmi di news, ma situazione difficile in evoluzione di cui continueremo a parlare qui anche ad America 24. Ma oggi vorrei parlarvi di una festa che ha occupato le menti e i cuori degli americani. Hi, I'm with an Italian radio. Italia? Sì, parla italiano, cose così. Did you expect this victory? Of course, absolutely. Of course. Yes, come USA, here. Yeah, come here. Certo. And you, did you expect the victory against Ghana? Italian, did I expect the victory? Of course. Of course, no doubt. Certo. Done deal. Ecco, questo è il momento della vittoria. Stati Uniti battono Ghana 2-1 alla Coppa del mondo. Devo dire, è stato un momento molto emozionante. La registrazione che vi ho fatto ascoltare l'ho presa in uno dei bar in cui sono andato in giro ieri pomeriggio per seguire questa partita, ed è stata una vittoria che ha esorcizzato le altre sconfitte che gli Stati Uniti hanno subito da questo Ghana, da questa squadra che, devo dire, ha giocato una partita davvero valorosa. Ve lo ricordo, gli Stati Uniti furono eliminati nel 2010 in Sudafrica proprio dal Ghana. Qual è stato il record di ieri? Dempsey, il grande attaccante americano, ha segnato dopo 30 secondi dall'avvio. È il gol in Coppa del Mondo più rapido che gli Stati Uniti abbiano mai fatto, e credo che, se andiamo a cercare un po' di storia, è sicuramente uno dei più rapidi. Questo ha dato molta grinta agli Stati Uniti. Il Ghana è apparso sperduto per buona parte del primo tempo. Nel secondo tempo una forte ripresa, un attacco feroce da parte del Ghana contro la difesa americana, che cercava di difendersi un po' come poteva, e sono andati a rischio varie volte. Alla fine il gol è arrivato di André Ayew, un tiro, devo dire, di esterno molto bello che ha spiazzato il portiere. Ecco, l'America ha avuto un momento di smarrimento, poi si è ripresa e su un corner all'86esimo minuto John Brooks segna di testa il gol della vittoria. Beh, non potete immaginare l'estasi. Sentiamo. L'America vive questa Coppa del Mondo, come dire, in modo molto intenso. Il New York Times, per esempio, ieri, se avremo tempo poi ne parleremo anche in una prossima trasmissione, ha dedicato un intero articolo alle culture del calcio. Qual è la cultura del Brasile? La creatività, la spontaneità. E quella dell'Inghilterra? Beh, è uno stile nazionale inglese, teso, confuso, un po' rigido. L'Italia vince quando è in difficoltà, quando è con le spalle al muro. I tedeschi, beh, hanno uno stile curato, precisione clinica, efficace, ed è lo stesso che vediamo quando vediamo gli tedeschi all'opera sul campo economico. Ecco, questo sulla carta, ma io la cultura americana sono andata a cercarla direttamente in questi bar. Quantità industriali di birra, bicchieri da mezzo litro ciascuno, e poi il rimorchio. Giovani, ragazzi, ragazze, un pubblico misto, devo dire, grande atmosfera, grande allegria, grandi risate. E beh, insomma, il calcio porta fortuna a chi cerca l'amore, infine il business. Ecco, questa è la differenza fondamentale. Da noi siamo assolutamente tesi, concentrati sulla partita. Qua in America la partita è seguita con grande entusiasmo, come avete sentito, però insomma così nei momenti un po' di stanca, beh, si fa altro. Sentiamo un altro momento della partita, un applauso, diciamo così, di ispirazione nazionale per la bandiera. È stata la reazione quando si è visto sugli schermi il vicepresidente Biden che è andato a Natal, di fianco a lui il presidente del Ghana, e qui lo sport si sposa alla diplomazia, perché oggi Biden sarà a Brasilia per cercare di ricucire con Dilma Rousseff, che aveva cancellato lo scorso anno una cena di Stato a Washington, rifiutando un invito già organizzato dal presidente Obama. Calcio e diplomazia dunque vanno anche a braccetto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, vi avevo detto che la NBC sta preparando una serie sui Beatles, e la BBC invece fa un documentario sui Genesis. Pensando allo stato di confusione internazionale in cui ci troviamo, in cui si trovano gli Stati Uniti, con l'eccezione ieri del calcio, beh, vi propongo dei Genesis. Land of Confusion. Superman, where are you now? When everything's gone wrong somehow. The men of steel, the men of power. Losing control by the hour. This is the time, this is the place. The will for the future. But there's not much left to go around. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Filippo Auregi in regia, Laura Faggini in assistenza e in redazione. Se volete scriverci, effettogiorno@radio24.it. Un ringraziamento come sempre anche a tutta la redazione di Radio 24. Noi ci fermiamo qua, ci risentiamo tra un attimo con GR24. Effetto Giorno torna domani alle 13:00.